Il punto di Stefano Folli. Tutto quello che introduce maggiore trasparenza nel rapporto tra lo Stato e i cittadini va visto con favore, però attenzione a non giocare con le parole o con i fatti. Ad esempio, è opportuno che il governo renda pubblici i documenti relativi agli episodi criminali, oscuri o tragici degli ultimi decenni, purché si riconosca che molto di questo materiale era già a disposizione dell'autorità giudiziaria e comunque non si voglia con questo accreditare interpretazioni fantapolitiche, complottistiche, che davvero non hanno bisogno di essere incoraggiate. Secondo esempio, lo spesometro. Bene se è davvero un'arma contro l'evasione fiscale, ma se si risolve in un ulteriore strumento di vessazione del cittadino onesto, tanto più che i mezzi per tracciare, come si dice, gli acquisti esistono già e sono numerosi. Finora a quanto pare hanno funzionato poco, se si desidera introdurre questo altro livello di controllo a carico di chi spende più di 3.600 euro. Duplicare le funzioni è costoso e rischia di tradursi in una mossa solo mediatica. È augurabile che non si tratti di questo.